You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Buona serata da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questa trasmissione di Radio 24 che ogni settimana vi porta a conoscere un italiano che ha le radici, le sue radici in qualche altro posto. E questa sera ho il piacere di avere un professore, un docente dell'Università di Padova, il professor John Baptist Onama. Buonasera. Buonasera. Allora, professore Onama, lei è di origini ugandesi. Certo. E è professore, come dicevamo, all'Università di Padova ed è stato un bambino soldato. È stato un bambino soldato negli anni Ottanta, è stato costretto dopo lo scoppio della guerra civile ad arruolarsi. La sua storia è una storia di rinascita, di possibilità della vita di rinnovarsi, no? Però prima di tutto so che lei ci ha portato, visto che questa è una cena, un piatto che le è caro. Sì, un piatto che mi è caro, che è un piatto anche insomma ugandese, pure di banana, c'è un tipo di banana particolare, no, che viene mangiato quando è ancora verde e così viene fatto bollire e si fa il purè. Questo va accompagnato con fagioli, con le spezie e col pane e poi insomma la salsa che lo accompagna. Ecco, questo si chiama cacciobo, è un piatto abbastanza diffusa in Uganda, insomma, non sia soprattutto al sud, ma si mangia anche al nord del paese. E tutto questo viene accompagnato molto spesso di una spremuta di ananas allungato con acqua piovana, quindi molto molto saporita. È un piatto che le ricorda la sua infanzia? Sì, mi ricordo la mia infanzia, anche periodo, diciamo così, insomma, felice, preparata insomma a casa con la mamma. Un'altra cosa più importante è che si mangia insieme, è tutto seduto intorno insomma, no, a questa pietanza, e si lava le mani e si mangia con le mani. C'è anche di comunità, di condivisione. Lei da che parte dell'Uganda arriva? Arrivo dal nord dell'Uganda. Sono nato a Gulu, si trova nella terra, diciamo così, dell'etnia degli Acholi. Mio papà invece è di Moyo, quindi bisogna attraversare il Nilo, andare in West Nile, appena a 5 km dal confine con Sudan, è un paese, una cittadina che si chiama Moyo. Che cosa facevano i suoi genitori? So che suo padre aveva una carica. Sì, mio padre è stato, si può dire, uno dei padri fondatori, diciamo così, dell'Uganda, perché ha partecipato fin dall'inizio, no, alle attività che hanno portato alla costituzione ugandese, ed era deputato per la circoscrizione che rappresentava la sua etnia, e dal 62, quindi dall'indipendenza fino al 64, era ministro degli interni, e poi dal 64 fino al 71 era ministro della difesa. E la sua infanzia quindi è stata un'infanzia felice nei primi anni, no? Sì, un'infanzia felice, una famiglia molto numerosa, insomma, perché mio papà insomma aveva diverse mogli, e quindi insomma siamo molti fratelli. Tanti fratelli. Era una persona abbastanza, come dire, coi piedi per terra, quindi pur essendo ministro non è che si abbia rischiato, privilegiato più di tanto, perché si ricordava i suoi tempi di scuola, quindi insomma ci faceva molto spesso questi discorsi, che la scuola era importante, che insomma di non guardare al benessere che lui si è costruita con molta fatica, perché faceva 30 km per andare a scuola quando era piccolo, erano le scuole di missionari i primi al nord, e quindi anzi seminario, insomma per un periodo ha passato anche per il seminario, perché erano le uniche scuole che erano disponibili. E anche lei andava a scuola, no? Andavo a scuola, avevo i miei amici, avevo la famiglia allargata ovviamente, e quindi oltre alla grande famiglia di mio papà, ma c'erano anche tutti i parenti, insomma nella zona dove vivevamo era un clan. Cosa è accaduto nel 1980? è arrivata la guerra. La prima fase di questa guerra era la guerra che ha messo fino agli 8 anni del governo dittatoriale di Idi Amin. E quindi nell'aprile del 79 avevo 13 anni, sono scappato con la mia famiglia in Sudan, e quindi insomma ho vissuto anche un po' l'esperienza del profugo, ecco, in Sudan. Poi nel novembre dello stesso anno, 79, sono rientrato in Uganda perché dovevo proseguire con la scolarizzazione. Nell'ottobre dell'80, nel frattempo, era cambiato l'esercito perché era stato licenziato l'esercito di Amin e c'era un nuovo esercito, quella della liberazione si chiamava, e questo nuovo esercito creò una situazione insomma di guerra, guerriglia, e quindi c'era quindi la guerra civile, no? Esattamente. In questo fuggi generale, a un certo punto lei e suo fratello, mi pare di capire che vi siete nascosti. Siamo nascosti nel soffitto, che secondo noi era un posto sicuro, ma non sapevamo che i soffitti venivano setacciati, no, dalle truppe governative alla ricerca di qualcosa da rubare, perché si erano accorti insomma che le case in muratura che non erano distrutte come quella nostra di famiglia, e quindi hanno cominciato a setacciare il soffitto, e noi siamo stati tirati giù praticamente dal soffitto di casa nostra. Ero con un fratello che aveva tra l'altro la febbre addosso, e tremava insomma, il fratello più grande di un paio d'anni insomma, ecco, ci ha risparmiato, ecco, il fatto di aver trovato qualcosa da rubare, almeno là insomma, anche se avevano minacciato di ucciderci subito, ci hanno risparmiato. Ci fanno questo interrogatorio il giorno dopo la nostra cattura, ci fanno questo interrogatorio insomma, no, che sembrava un esame orale di geografia insomma locale, e per accertarsi che conoscessimo bene insomma il territorio. Dopodiché ci minacciano di ucciderci, perché insomma quello era la cosa che facevano. Avevamo visto tra l'altro corpi di civili uccisi e lasciati là, non seppellivano i morti. E quindi quando ci hanno minacciato di morte, noi non potevamo pensare che stessero scherzando, insomma, l'abbiamo preso sul serio, perché avevano bisogno di persone del posto che guidassero un plotone che aveva il compito di rastrellare, garantendo insomma così la sicurezza insomma di questa cittadina dove erano accampati una massa di soldati insomma. Allora siamo stati integrati a questo plotone. Come avviene il passaggio da guida, no, di questo, sì, plotone a vero e proprio soldato, bambino soldato, perché lei, lo ricordiamo, quanti anni aveva? 13? 14. Com'è passato a diventare un soldato? L'hanno costretta? È passato sì attraverso l'addestramento, perché dal momento che ci hanno minacciato, no, hanno minacciato di ucciderci, hanno anche subito dopo offerto un'opzione, ecco, se collaboravamo dando una mano all'esercito, insomma, venivamo risparmiati, e quindi hanno ottenuto esattamente quello che volevano insomma. E alla fine sì, abbiamo aderito, quindi non ci hanno picchiato, era una minaccia, ma era una minaccia vuota, ripeto, abbiamo visto le atrocità contro i civili e le cose che avevano fatto, campane bruciate e persone uccise e lasciate là. Quindi c'era poca scelta insomma, o arruolarsi o morire. Sì, peggio ancora, non avevamo all'epoca delle persone adulti che potessero difenderci. No, perché la guerra, la gente, chi poteva era fuggita, tornata nel Sudan, ma siccome i confini ormai erano chiusi. I suoi genitori dove erano in quel momento? I miei genitori erano in Sudan. Dobbiamo fare una piccola pausa, ma torniamo a parlare subito dopo con lei, che ci racconterà appunto come poi è riuscito a scappare da questa situazione e a rinascere come persona. Tra un attimo. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Bentornati a Indovina chi viene a cena questa sera. Una storia straordinaria, quella di John Baptist Onama, un professore dell'Università di Padova da moltissimi anni in Italia, ma di origini dell'Uganda, dove, come ci stava raccontando, nel 1980 venne catturato in pratica e trasformato in bambino soldato. Esattamente, esattamente. Ci hanno addestrato a usare l'arma e, per non essere confusi con i ribelli, avevamo anche una divisa. È vero che per farvi combattere e anche per vincere la paura che probabilmente provavate nel combattere, vi davano anche delle droghe? Sì, c'era marijuana che girava liberamente, nel senso che c'era qualcuno che aveva sempre una scorta, insomma. I più grandi avevano anche l'alcol che e bevevano anche dell'alcol. Noi soprattutto, insomma, ci davano appunto la marijuana da fumare in dose abbondanti, dicendoci che ci aiutava a sconfiggere la paura, la fame, ecco, e tutte quelle, insomma, quello che magari, insomma, difficilmente riuscivamo magari anche a digerire, delle cose che succedevano durante i pattugliamenti, ecco. Ci racconti uno di questi momenti che magari nella sua memoria, nei suoi sogni ritornano, di paura e di umiliazione anche. Sì, quello che mi è rimasto di più in mezzo alle uccisioni, gli stupri di massa e altre cose, è l'uccisione di una donna anziana che non era riuscita a fuggire via, quindi aveva assistito alla distruzione di casa sua. Camminava con un bastone, già, quindi insomma in età avanzata, intorno a queste capanne bruciate, capanne granai e così via. Questa donna si era nascosta, la nonna era dentro una coltivazione di sorgo e di miglio. Seguendo questo galletto, uno dei nostri compagni soldati finì per scoprire questa la nonna e sparato, l'ha presa sulla spalla senza ucciderla. E ha ripetuto più volte: figlio mio, perché mi uccidi, che male ti ho fatto. Ha detto più volte queste parole. Mi ha toccato e mi è rimasto, e penso che mi rimarrà per tutta la vita, no? Per dire. Agalirara, agalirara monkolimbo, agalirara, agalirara monkolimbo. Kogera njogera omweru takira muddugavu agalirala agalirala munkolimbo nakamwante tagenze kumbuga okundopa senakola ntya agalirala munkolimbo agalirala agalirala munkolimbo. In altre occasioni invece è stato lei a dover sparare? In altre occasioni sì, abbiamo sparato, diciamo, perché si era inventato questo modo di sparare in gruppo, no? Come un plotone di esecuzione, okay? Se non altro per togliersi magari, no, la responsabilità, no, per l'uccisione di altre persone, di civili, ma anche di ribelli. Insomma, i ribelli sapevano benissimo che se li prendevamo, insomma, non si prendevano prigionieri di guerra, insomma, ecco. Senta, quindi, vi costringevano a sparare oppure a un certo punto diventava quasi, tra virgolette, un gioco, no? In una realtà distorta? Sì, ci si abitua a sparare, insomma, magari anche se, ma si sparava a momenti quando eravamo in cammino, in pattugliamento, zone un po' pericolose, e quindi era necessario anche mantenere un certo silenzio, no? Essere un po' attenti. E in altre occasioni si sparava a tutto, si sparava a galline, si sparava agli uccelli, si sparava. Sparare alle persone era come sparare a qualcos'altro, ecco. Cioè il valore della vita umana perdeva significato. Assolutamente, assolutamente. Dopo gli scontri con i pochi ribelli che insomma incontravamo, e la rabbia e tutto il resto veniva svuotata sui civili, che i civili da solati, insomma, no, girovagavano in mezzo ai boschi, quindi insomma li controllavano molto spesso. Quindi sparavate anche ai civili? Senta, lei ha provato più volte a scappare, più volte è stato riacciuffato, no? E poi a un certo punto ha avuto un incontro che le ha cambiato la vita, quello sì, con Suor Veronica. Suor Veronica era preside di principale di una scuola elementare. Primo allontanamento, dopo un mese e mezzo circa dal fronte, poi mi sono presentato alla sua scuola e mi ha preso. Mi ha dato una mano, mi ha accolto e mi ha aiutato. Sono riuscito a sostenere l'esame di licenza elementare, quindi siamo nel fine novembre-dicembre 1980, proprio nella sua scuola. E sono stato riacciuffato, quindi siamo nel marzo del 1981, ed è seguito di nuovo a fronte fino a settembre. A settembre sono di ritorno di nuovo al quartier generale, questa volta insomma conosciuto attraverso i fratelli che insegnavano nella scuola di Suor Veronica, conosciuto un diacono che insomma dietro la mia richiesta di tornare a scuola andò a parlare con vescovo di Gulu all'epoca, Monsignor Cipriano Chianghire. E questo vescovo insomma fece in modo di cambiarle la vita. Sì, ha detto, boh, il ragazzo vuole andare a scuola, io non lo mandiamo a scuola. E quindi esonerarmi dalle tasse, non potevo pagare le tasse perché insomma non avevo genitori. E, ecco, quindi Sigalà mi ha messo in questo collegio e in collegio insomma ho cominciato. Ha cambiato tutto e poi è arrivato a Padova nell'88, insomma, e anche lì grazie ai missionari è riuscito a studiare, è diventato, beh, insomma, la storia è lunga e c'è anche un episodio come lavapiatti della mensa universitaria che è bello citare per far proprio anche capire che insomma questa storia si nutre di diverse fasi della sua vita, ma poi in questa università da lavapiatti a prima bambino soldato lei è diventato docente universitario. E come ed è possibile cambiare vita? È possibile arrivare a una vita normale dopo aver vissuto un'esperienza di quel tipo, del tipo che lei ha vissuto? Beh, con molta umiltà, imparando, rieducandosi. Io per mia fortuna penso poi aiutato ovviamente insomma no, da anche dalle persone che ho incontrato lungo la mia vita che mi hanno dato una mano, la possibilità di interpretare anche quello che insomma la gentilezza e la generosità che ho offerto, no? Cioè che ho trovato lungo la strada, e trovandomi qua in un paese che insomma dove invece no, di diritti e di insomma no, di solidarietà ce n'è tanto, no? E, ecco, quindi una situazione che mi ha aiutato. Quindi il fatto di stare in Italia ha cambiato la sua vita. Se fosse rimasto in Uganda? Sì. Io se fossi rimasto in Uganda, intanto lo studio, che è sempre stato il mio chiodo fisso, ma anche per le cose che dicevo prima, no? Una generazione mandata a scuola, insomma, no, con tanto di bastonate, ecco, per dire che l'istruzione è tutto. Questo è stato anche mio padre, insomma, amava, cioè, chi studiava, insomma, no, quella generazione là. E poi e quindi oltre insomma, no, allo studio. Quindi se fossi rimasto in Uganda non avevo questa possibilità di andare avanti con gli studi, prima cosa. La seconda cosa, la rabbia che mi portava dentro e così via, prima o poi mi avrebbe ricacciato probabilmente anche nell'esercito. Quindi, come succede, insomma, molti ragazzi, erano pochi all'epoca, 80-81, che erano nell'esercito, molti poi insomma morirono nelle guerre successive, perché l'Uganda ha avuto un lunghissimo periodo di guerra che insomma è finito solo nel 2011 più o meno, con questa guerra che si sposta da un parte del paese all'altra, e quindi insomma sarei finito ovviamente, sicuramente insomma in uno di quei, o nell'esercito, probabilmente anche ucciso insomma in una di quelle guerre là. Pensa mai alle persone che ha ucciso? Sì, se sono qua a parlare di queste cose perché ci penso, è un non senso, cioè non c'è nessuna giustificazione. Ora, al di là del fatto di essere stato un bambino in quelle condizioni, che insomma un po' per gioco, spinto un po' per la minaccia, la voglia di sopravvivere, e quindi senza rifletterci mi sono trovato in queste azioni, no, che hanno portato alla morte di altre persone, un po' mi ateno alla cosa. Però sono state vite tolte in quella guerra anche con la mia partecipazione. Verrebbe da pensare che uno voglia solo dimenticare, no? Perché e come? Qual è stato il momento in cui invece ha deciso di raccontare? Perché lei poteva, tutto sommato, sì, non parlare di questa parte della sua vita. Sì, sono rimasto zitto per un sacco di tempo, ma perché non conveniva. Le prime volte che ho provato a parlarne la reazione era negativa, addirittura no, dannosa per me, perché insomma discriminazione e così via, incredulità, tutta una serie di cose, e quindi per tutelarmi sono rimasto zitto, insomma non ne ho fatto parola per un lunghissimo periodo. Ho cominciato a parlare quando ho riscoperto che nel mio paese d'origine, che è in Uganda, questo fenomeno, che era una piccola cosa nell'80, dall'87 in poi era diventata una cosa, una voragine, questa conflitto al nord che ha divorato decine di migliaia di bambini, dove i bambini erano loro i veri bersagli, no? Insomma, no, del conflitto. Quando in giro per il mondo insomma le notizie che arrivava che erano 300.000 e passa bambini soldato, no? Insomma, fosse successo, se fosse limitato a me, io mi ero rifatto una vita con i miei incubi, insomma, no? Ho imparato a vivere, no? Con le mie paure e le altre cose, va bene, però che la situazione continuasse e niente, per un senso, con molta umiltà, ma anche con un senso di responsabilità, insomma, ho scelto di cominciare a parlarne, se non altro per dire la mia, insomma, no, dall'esperienza personale, proprio sul fatto che la guerra è una cosa terribile, non ci sono guerre pulite o così via, anche perché le parole della nonna me le sento, le vedo ancora. Ogni conflitto, ero qua quando, sono qua da tanto tempo, ero qua quando è scoppiata la ex Jugoslavia, quindi non si tratta di chissà quale altro paese, no, del terzo mondo, qua a due passi, e insomma abbiamo visto delle cose orrende, compresi quegli stessi tipo di stupri, no, che ho visto nella guerra, insomma, no? Sono stato preso, partecipato, insomma, no, in Uganda, e quindi i confini non cambiano queste verità. Una cosa che pensiamo che possa essere lontana, in realtà può purtroppo anche essere vicina, e possiamo scivolarci facilmente, non dovremmo mai dimenticarlo. Io credo che sia importantissimo che lei ci racconti la sua storia, perché è una storia davvero importante per capire come viene plagiato un bambino, come può essere plagiato. Anche oggi ci sono 150.000 bambini e bambine che prendono parte a combattimenti in 17 teatri di guerra presenti nel mondo. È importantissimo sapere come questi bambini vengono arruolati, come vengono plagiati, e che da una vita così si può rinascere e andare avanti e trasformare la propria vita e raccontare della propria vita, come ha fatto lei, professore. Io la ringrazio moltissimo per essere stato con noi questa sera, per aver voluto condividere con noi la sua esperienza straordinaria, il suo successo come professore all'Università di Padova e la sua vita oggi. Grazie, professore. Grazie, buon proseguimento, buona riflessione a tutti. Ecco, siamo qua e abbiamo un destino comune, quindi è bene che parliamo di queste cose. Grazie ancora. Prima di lasciarvi però sentiamo dal portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini, quanto e dove sono diffusi i reclutamenti di bambini e bambine soldato nel mondo. Andrea, quali sono i posti dove vengono reclutati oggi i bambini soldato e come possiamo combattere questo fenomeno? Allora, innanzitutto, se pensiamo che nel mondo ci sono 250 milioni di bambini colpiti dai conflitti, purtroppo questo fenomeno è sempre più diffuso, quindi non è un fenomeno che è arretrato nel corso del tempo. Nel mondo i posti più colpiti, come sappiamo, sono il Sud Sudan e il Centrafrica, la Repubblica Centrafricana, che sono delle zone purtroppo dove ci sono delle guerre civili in atto che durano da molto tempo. Le cifre parlano per entrambi i paesi di 12.000 e 10.000 bambini reclutati come soldati. E poi c'è un'area molto calda, che è quella chiaramente che è sulle cronache di tutti i giorni, che è quella del Medio Orientale. Nella sola Siria abbiamo evidenze di bambini soldato reclutati all'inizio del conflitto, quindi nei primi 3 anni, tra i 15 e i 17 anni. Oggi, al quinto anno di conflitto, questo numero è tremendamente sceso e si parla di bimbi intorno ai 7 anni che imbracciano fucili e che combattono. Cosa fare per arginare tutto questo? Innanzitutto, come sappiamo, i bambini soldato rappresentano una grave violazione dei protocolli opzionali della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Noi spesso ci appelliamo infatti alle parti in conflitto proprio per rispettare quanto è stato firmato, visto che è una convenzione che hanno firmato tutti i paesi del mondo. Ma l'azione che come UNICEF mettiamo in campo è quella di dialogare costantemente con i governi per cercare di riportare e liberare questi bambini. La scorsa settimana ne abbiamo liberati 100 in Sud Sudan, nei mesi scorsi altrettanti in Centrafrica e in altri paesi. Il dialogo con i governi però non basta, è fondamentale parlare con le comunità. Quello che noi stiamo cercando di fare è di fare dei percorsi anche di istruzione che possano recuperarli. Molti dei bambini soldati, come Ismael Beah, per citarne uno che è il più famoso, che oggi rappresenta proprio alle Nazioni Unite questa icona, sono ragazzi che hanno fatto dei percorsi di studio poi ben precisi e che sono tornati a vita normale, anche se chiaramente i traumi sono davvero indelebili. Grazie professor Gian Baptiste Onama che ci ha raccontato questa sera la sua storia. Grazie anche a Carmelo Lauricella in regia, soprattutto a tutti voi per essere stati all'ascolto di questa puntata di Indovina chi viene a cena. Buona serata a tutti, a sabato prossimo. You've got to give a little. That's the glory.